frequenze sui generis. Innamorati del femminismo. E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Eccoci qua, è lunedì e come sempre alle 2:30 ci siamo noi di Frequenze sui Generis. Oggi lo studio è pieno, infatti siamo quattro, ci siamo tutte, ci sono io che sono Mari. Ci sono io che sono Anna. Viviana. E io sono Giulia. Bene, una puntata molto interessante anche quella di oggi, in cui parleremo di un tema che forse non tutti conoscono, il mansplaining. Allora, per spiegarci che cos'è il mansplaining, io chiedo a te Anna, che so che hai letto tanto, ti sei informata tanto e forse riuscirai insomma a darci una definizione per far capire anche a chi già non sa di cosa stiamo parlando che cos'è questo mansplaining. Sì, allora in realtà faccio un po' la mansplayer, nel senso che lo spiego io perché non so di cosa si tratta, o almeno non lo sapevo. Quando Vivi ha proposto questo argomento la settimana scorsa, non avevo idea di cosa stesse parlando e quindi ho spuntato tutte le cose che rispondessero alla voce mansplayer su Google, fondamentalmente, e mi pare di aver capito, correggetemi se sbaglio, che il termine mansplayer indica un uomo, man, chiaramente, che explain, spiega. E infatti nasce da un articolo che in italiano si potrebbe tradurre uomini che spiegano le cose, o meglio, è proprio stato tradotto uomini che spiegano le cose. Ed è un fenomeno che in pratica racconta poi delle dinamiche di potere, ma svisceremo più avanti tutti questi temi. Comunque fondamentalmente è quel modo di porsi tipico degli uomini per cui ti spiegano qualcosa alle donne, tipico degli uomini nei confronti delle donne, di spiegare qualcosa anche quando fondamentalmente non la sanno o ne sanno meno di una donna, quindi magari parlano con una donna titolata proprio su quel tema, una donna magari laureata, per dire, ci sono moltissimi esempi. C'era l'esempio di un uomo che ha risposto su Twitter a un'astrofisica dicendo che dovresti studiare un po' di scienze. C'erano moltissimi altri casi, in particolare quello dell'autrice di questo articolo, Uomini che spiegano le cose, autrice di un libro che un altro uomo le stava spiegando senza sapere che lei era l'autrice di quel libro. Insomma, ci sono tantissimi casi, però fondamentalmente il fenomeno è questo: uomini che si sentono in diritto di spiegare qualcosa alle donne. Poi ci sono altri casi, per dire, si parla anche di whiteplaining, cioè dei bianchi che spiegano le cose, ed è quell'atteggiamento un po' anche di condiscendenza, no? Non è una violenza chiara, è semplicemente quell'atteggiamento un po' di condiscendenza, un po' di anche maggiore sicurezza forse. Comunque tutti questi temi noi cercheremo di capirli meglio nel corso di questa puntata. Beh, direi che hai dato una spiegazione molto chiara, cara Anna, e come hai detto tu appunto molto chiaramente, la cosa difficile di questo tema è proprio che a volte non è semplice riconoscere di essere in una situazione di mansplaining. Ma prima di addentrarci all'interno della puntata, come sempre, lasciamo la parola alla nostra Giulia, che anche per questa puntata ha fatto il miracolo e ci ha trovato la musica perfetta da abbinare a tutta la nostra spiegazione. Sì, allora, per restare in tema musicale, io volevo raccontare un aneddoto che mi è successo sulle sale da ballo, per cui appunto io sto imparando una danza e ho rinominato questo fenomeno come danceplaining, nel senso che mi è capitato 2 settimane fa di essere appunto a ballare, insomma, questo ballo che si balla in due, dove molto spesso dove c'è un follower e un leader. Molto spesso il leader, anzi quasi sempre, è un uomo e il follower è una follower, e mi è capitato che appunto il leader mi spiegasse dei passi mentre, cioè, in teoria si va lì per divertirsi, per ballare senza anche pensare troppo, e ci siamo fermati e praticamente mi ha dato una lezione di ballo. Poi ho scoperto che balla da meno tempo di me questo uomo. È stato molto carino perché gli altri danzatori, anche uomini, diciamo, hanno visto questa scena e mi hanno detto: ma scusa, ma sto qua che cosa sta facendo? Nel senso, alla fine dovete ballare, basta, e cioè, non farci caso, insomma. Quindi è stata una scena molto divertente, quindi la mia scelta musicale c'entra un pochino con questo genere di ballo. E vi presento Peggy Lee, che è una cantante che ha debuttato nel 1941, quindi è stata molto famosa negli anni 50 e 60, ha avuto una carriera lunghissima fino al 1996, ha cantato e musica jazz e blues come genere, e che ha, diciamo, anche lei, insomma, ha avuto una storia abbastanza frammentata e difficile, ma ha utilizzato la musica come via di fuga e, diciamo, ci è riuscita perché ha avuto un grandissimo successo. Riconoscerete le canzoni che vi proponiamo. La prima è al titolo di una cosa che purtroppo molte donne si sentono dire: Why don't you do right? You had a plenty of money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wonder now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? E sulle note di Peggy Lee torniamo in studio. Abbiamo spiegato cos'è il mansplaining, ma come sempre preferiamo farlo spiegare a voi. Quindi abbiamo chiesto alle nostre ascoltatrici di mandarci dei contributi. Ascoltiamo quindi un contributo che è arrivato. L'ultimo caso di mansplaining mi è capitato da proprio poche settimane fa con un mio collega. Io sono una ricercatrice e ho da poco cominciato una nuova posizione, ho cominciato in un nuovo ruolo in una università e stavo parlando con il mio nuovo collega e stavamo discutendo delle nostre esperienze durante il dottorato. E entrambi dicevamo che durante il dottorato capita molto spesso di andare a corsi di varia natura dove ti spiegano diverse tecniche, per esempio di laboratorio, e molto spesso le persone che tengono questi corsi ignorano che il fatto che alcuni dei dottorandi provengono da percorsi universitari molto diversi. E nel mio caso io raccontavo che una volta mi è capitato di andare ad un corso dove mi spiegavano delle tecniche di biologia molecolare. Io sono un ingegnere e l'insegnante del corso ha cominciato il corso dicendo che in queste tecniche di biologia molecolare si utilizzano dei principi di multiplexing, e io ho completamente non sapevo che cosa fosse il multiplexing, e quindi sono rimasta un po' all'inizio un po' confusa. E anche lui diceva che era vero, sì, che molto spesso gli era capitato di avere questo stesso problema. Quindi, conclusa la discussione, qualche secondo più tardi lui si gira e mi dice: ah, comunque il multiplexing può essere anche utilizzato in quest'altra situazione. Quindi mi ha dato l'informazione che io già sapevo, perché comunque avevo poi fatto il corso e utilizzato e applicato questa tecnica, e soprattutto l'informazione che io non gli avevo chiesto e che era completamente al di fuori del contesto del nostro discorso e di qualche secondo prima. E quindi io all'inizio, quando mi ha detto questa cosa, io sono rimasta un po' basita, perché non sapevo che come rispondergli. Avrei voluto dirgli: guarda che lo so, non c'è bisogno che tu me lo spieghi, però non ho voluto sembrare acida, soprattutto perché lo avevo conosciuto da poco. E allora la mia reazione è stata: ah, grazie per l'informazione, e da allora lo chiamo il mansplainer. Il secondo contributo invece ci è stato scritto via messaggio, perché come diciamo sempre queste nostre puntate sono puntate che riusciamo a costruire anche grazie al vostro aiuto. Ci interessano moltissimo le vostre esperienze quotidiane e potete scrivercele, segnalarci, mandarci un audio scrivendo alla nostra pagina Frequenze Sui Generis su Facebook oppure alla nostra mail frequenzesuigeneris@gmail.com. E questo è un contributo che è arrivato via mail di una nostra ascoltatrice che si firma SR e ci dice: di recente mi sono rivolta a un uomo che ha competenze differenti dalle mie, ma sempre nel medesimo campo lavorativo. Ho pensato quindi, contattandolo, di unire le energie per una collaborazione nella quale le reciproche competenze emergessero, senza che entrassero o entrassimo necessariamente in competizione. Fatto sta che all'inizio del rapporto di natura lavorativa, questa persona elogiava molto il mio modo di approcciarmi al lavoro, il come lo facevo e le competenze che avevo. A distanza di un mese dall'inizio di questa collaborazione, la persona che all'inizio faceva solo complimenti ha cominciato a mettere in dubbio quello che dicevo e facevo nel lavoro svolto. È andata increscendo questa cosa e ha assunto una persona che non ha le mie competenze e che ha iniziato ad agire il mansplaining. Prima lo ha fatto compiere da un altro uomo e poi ha iniziato anche lui, che nella mia competenza lavorativa non è mai entrato. Successivamente a questo atteggiamento, che è da considerarsi come una violenza psicologica connessa al potere, un giorno mi invia una mail dove accusa solo me della mancata realizzazione di uno dei progetti al quale tutti e tre e anche altre persone stavamo lavorando. Poi ritratta la precedente accusa, dopo che gli ho detto chiaramente che se un progetto fallisce magari è anche per le illusioni che si smorzano o per una serie di fattori concatenati. Lui si scusa e passa da una serie di progetti affidati a me e nei quali mettevano bocca lui e altri a sempre meno progetti. Insomma, ringraziamo anche questa ascoltatrice per questo contributo che ci ha dato rispetto al tema del mansplaining. E a questo punto rilanciamo la domanda, no? Avete un mansplainer nella vostra vita? Se sì, potete mandarci le vostre storie e noi le racconteremo. Ma per non fare a nostra volta le mansplainer, quindi spiegarvi tutto noi, abbiamo deciso di intervistare una sociologa della comunicazione, Graziella Priulla. Ciao Graziella. Ciao a tutte. E volevo chiederti se ci sono diversi atteggiamenti tra uomini e donne nella comunicazione e quali sono. Non è facile rispondere, perché naturalmente non tutti gli uomini sono uguali e non tutte le donne sono uguali, quindi bisognerebbe conoscere caso per caso per poter dare una risposta seria. Ci sono però dei dati comuni. Per esempio, è abbastanza evidente, credo che tutti se ne accorgano, che nelle riunioni, soprattutto in quelle pubbliche, gli uomini prendono la parola con maggior frequenza delle donne, non so, per esempio anche soltanto nelle riunioni di condominio. E una cosa che colpisce è che mentre le donne che vogliono dire qualche cosa, se qualcun altro l'ha già detta, difficilmente la ripetono, cioè attivano una specie di autocensura, gli uomini lo fanno di meno, nel senso che non gli importa, se hanno una cosa in testa la dicono anche se è già stata detta. Questo per quanto riguarda l'aspetto pubblico della cosa. Per quanto riguarda l'aspetto privato, è indubbio che le donne parlino in famiglia, nei rapporti di coppia, anche nei rapporti di parentela, parlino con maggior frequenza degli uomini e soprattutto parlano di cose molto diverse, nel senso che gli uomini hanno di più l'abitudine a parlare di fatti, di azioni, di accadimenti, di eventi, di personaggi anche. Le donne parlano più facilmente di relazioni, di sentimenti, di stati d'animo. Ma questo non perché sia nella genetica o nell'anatomia, semplicemente perché sono state abituate così, perché da sempre gli uomini si occupano della cosa pubblica e le donne delle vicende private. È difficile, anche se stiamo cominciando già da un po', è difficile invertire la rotta, una rotta antica. Sì, leggevo anche che le donne dicono più spesso rispetto agli uomini parole come grazie, scusa, cioè tendono a ringraziare più spesso e a scusarsi anche quando non ce n'è bisogno, è vero? Sì, è vero, è come se in qualche modo dovessimo, come dire, giustificare la presenza, ecco, alle donne è stato chiesto per secoli di essere silenziose, sottomesse, ubbidienti, discrete, di stare nell'ombra, e anche adesso che si è rotta questa consuetudine e che noi andiamo dappertutto e che facciamo tutte le cose che facevano tradizionalmente solo gli uomini, però ci è rimasta ancora questa paura, è quasi come se avessimo il timore di voler emergere, di essere troppo presenti, di imporci, e quindi, a parte il fatto che normalmente abbiamo anche più sensibilità, anche questa acquisita nei secoli, più empatia nei confronti delle altre persone, quindi stiamo più attenti a non ferirle. In fondo dire grazie, scusa, prego è una bella cosa, no? Io vorrei che tanti di più lo facessero. Noi abbiamo ascoltato alcune donne raccontarci degli episodi di mansplaining. Perché è così frequente il mansplaining e cosa ci dice della relazione fra i generi? Mansplaining è stato tradotto nel titolo italiano di un libro che è appena uscito di Rebecca Solnit, è stato tradotto Gli uomini mi spiegano le cose, ed è un meccanismo che accade molto spesso, anche se tu sei esperta in un campo, se tu hai scritto dei libri, hai ottenuto dei riconoscimenti, hai addirittura una cattedra in quel campo, c'è sempre un uomo, magari meno qualificato di te, che però si sente in dovere di spiegarti le cose. La Solnit ci cita un paradosso, addirittura ci sono stati uomini che cercavano di spiegarle le cose che lei stessa aveva scritto in un libro. Ma questo anche questo ha delle radici antiche. È il senso di protezione, quello che i sociologi e le sociologhe chiamano il sessismo benevolo. Nel senso che c'è un sessismo ostile, un sessismo pesante, no? Quello che è misogino, quello che dice che le donne sono tutte puntini puntini, che sono meno intelligenti degli uomini, che devono andare a fare la calzetta, eccetera, che è sempre più nei margini, diciamo, oggi fortunatamente sempre meno evidente. Ma c'è anche il sessismo benevolo di chi ti protegge. Faccio un esempio per capirci. Il sessismo ostile ti dice siamo sposati, lui dice a lei tu non vai a lavorare perché io non voglio, tu stai a casa. Il sessismo benevolo non dice così, dice ah ma io non voglio che tu faccia troppo lavoro, già hai tanto lavoro in casa, non sobbarcarti anche il lavoro fuori. È molto più gentile, è molto apparentemente meno pesante, però in fondo ottiene lo stesso risultato, lei sta a casa. E allora l'atteggiamento protettivo, come dire io ti spiego le cose perché tu in fondo sei solo una donna, cosa ne vuoi sapere tu? D'altronde se lei guarda rispetto, mettiamo anche una cosa stupida della vita quotidiana, due che vanno verso un'automobile, se sono un uomo e una donna, io scommetto 90 a 10 che lui va verso il volante e lei va verso il sedile del passeggero, anche se tutte e due hanno la patente. E non è un problema soltanto di abitudine, è un problema proprio di potere, il controllo. Ecco, gli uomini rinunciano malvolentieri all'antico desiderio e anche all'antica abitudine di avere controllo delle situazioni e quindi il potere. Moltissimi degli atteggiamenti di cui stiamo parlando sono poi riconducibili a una brutale nel senso di banale dinamica di potere. Parlando di, appunto, di maschilismo benevolo, adesso magari la domanda è molto difficile, ma puoi suggerirci un antidoto al mansplaining? Cioè quando incontriamo un mansplainer, come possiamo reagire? Non è facile, perché il problema vero è che lui non se ne rende mica conto. Cioè mentre se uno ti dà un pugno, se uno ti usa violenza fisica, se uno è brutale, se ne accorge sia la vittima che il carnefice. In questo caso non c'è né vittima né carnefice, nel senso che lui non se ne rende conto e molto spesso non se ne rende conto neanche la donna che lo subisce. Le vie d'uscita sono sostanzialmente due. La prima è quella sociale. finché le donne non avranno legittimazione al potere in tutti i campi, finché non verranno riconosciute come esperte autorevoli, basta guardare la televisione, la maggioranza degli esperti intervistati sono uomini, fino a quando non avranno posizioni di rilievo in ambito intellettuale, culturale, eccetera, sarà difficile invertire questa rotta. La seconda è quella individuale, quella di volta in volta, cioè bisognerebbe che noi avessimo coraggio ogni volta che qualcuno o ci interrompe o ci vuole spiegare le cose che già sappiamo, gli dicessimo: guarda che io ne so più di te in questo campo, mi dispiace, ma è inutile che tu mi spieghi una cosa che io so già. E lì però interviene quell'autocensura di cui mi parlavi all'inizio, ci pare di essere sgradevoli, ci pare di essere maleducate, anche perché ci hanno abituate sempre che dovevamo essere gradevoli, piacevoli, non dovevamo apparire saccenti, e quindi è un po' difficile da attuare. E la terza cosa, anche se è più difficile ma è determinante, dobbiamo educare diversamente i giovani uomini, bisognerebbe cominciare fin dall'infanzia. Io lo vedo già nelle scuole, tutte le volte che ci vado, che i ragazzi hanno quest'aria di supponenza: ah, ma io sono un maschio e posso. Questo è difficile da estirpare, ma se si comincia presto forse si riesce. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story. Fever si chiamava questo brano, non so se a voi è venuta un po' di febbre, a me un po' di palpitazioni sono venute rispetto a questo tema, a questo argomento, perché ci sono alcune parole chiave che sono state dette sia dall'intervista di Graziella Priulla, sia anche dai contributi che abbiamo ascoltato. Una parola che mi risuona molto è stato quando il contributo vocale che abbiamo ascoltato ci ha detto: io avrei potuto rispondere a questa persona, ma non l'ho fatto perché altrimenti sarei sembrata acida, ed è un po' la stessa cosa che ci ha detto Priulla. nulla, cioè il fatto che le donne insomma fanno un po' fatica a usare degli antidoti perché utilizzarli significa comunque prendere una posizione chiara e netta di fronte al nostro interlocutore, e tutte noi donne credo sappiamo molto bene quanto sia facile in questo momento, in questa situazione, essere poi dopo tacciate di acidità o di essere persone saccenti o essere persone troppo rigide o comunque diciamo difformi dall'idea di donna normalmente accondiscendente, aperta e accogliente che culturalmente si ha. Cosa ne pensate? Allora Maria, in realtà io avevo in mente da tutte le interviste che abbiamo ascoltato tutta un'altra cosa, ma poi mentre ti sentivo mi è venuto in mente un discorso che avevo letto, siccome siamo anche in tema di settimana sulla contro la violenza di genere, no? E sulla violenza che subiscono le donne in generale e sulla violenza di genere si parla molto spesso, almeno è un discorso che a me è piaciuto molto, della normalizzazione della violenza, no? E a me sembra un po', facendo questo discorso, che in qualche modo siamo riuscite, in parte, stiamo riuscendo a uscire da questo fenomeno di normalizzazione della violenza esplicita, no? Come diceva anche la Priulla, stiamo uscendo da questa normalizzazione della violenza esplicita e subito dopo ne riconosciamo un'altra che magari è meno esplicita, ma insomma è di nuovo normalizzata, così normalizzata che appunto diventa anche quasi imbarazzante rispondere. E secondo me, appunto, questa era la cosa che invece pensavo da un po', un altro tema molto importante era quello sul discorso del potere, che secondo me è anche legato poi al tema della normalizzazione, cioè noi abbiamo dei legami di potere che sono percepibili nei nostri rapporti sociali tutti i giorni, che poi vengono anche normalizzati appunto visto che li viviamo tutti i giorni, e all'interno di queste dinamiche di potere poi si crea appunto la violenza di un fenomeno come questo del mansplayer, che è una violenza proprio perché c'è una dinamica di potere, perché è chiaro che se una persona subordinata o che non ti può far sentire in difetto anche ti vuole spiegare qualcosa che tu già sai, la cosa non ti darà fastidio. Un bambino che arriva e ti vuole spiegare qualcosa in realtà ti fa sorridere. Il problema secondo me è proprio questa dinamica di potere. E l'altra cosa che diceva Priulla su come combattere il mansplaining, cioè riconoscerlo prima di tutto e educarci e educare gli altri a non praticarlo, è secondo me fondamentale. Cioè, secondo me lo scopo di questo programma è questo, riconoscere delle cose. Ma infatti una cosa che pensavo è proprio il fatto, hai parlato appunto di educazione, e ciò che noi rileviamo andando a fare dei progetti all'interno delle scuole, spesso in particolare nelle scuole medie, quando parliamo di stereotipi, quando portiamo i nostri laboratori, ci sono dei momenti molto forti di confronto all'interno della classe. Bene, ci succede praticamente il 90% delle volte nelle classi in cui andiamo, quasi sempre i maschi della classe prendono la parola e francamente a volte anche per dire delle sciocchezze, ma non hanno timore di esporsi, non hanno timore della presa di parola pubblica. E invece è molto più difficile da parte delle ragazze, a volte magari c'è la ragazza della classe che fa un po' la portavoce, che è quella che non ha paura di schierarsi, poi invece tutte le altre molto spesso rimangono in silenzio, ed è un fenomeno che si verifica troppe volte, no? È troppo frequente per pensare che riguardi specificamente quella persona o quelle persone, perché poi alla fine dei progetti, quando magari abbiamo indietro dei questionari di gradimento, i ragionamenti che le ragazze hanno sviluppato sono dei ragionamenti molto interessanti, che sarebbe stato bello fossero stati condivisi, ed è un po' anche una perdita per tutte e per tutti il fatto che queste opinioni poi dopo non emergano. Sì, io volevo riprendere un'espressione che ha usato Priulla nell'intervista, che è quella di maschilismo benevolo, perché magari si tende a parlare delle cose più eclatanti, quindi della violenza, ed è bene parlarne, però non bisogna anche ignorare quegli atti di maschilismo benevolo che ci sono attorno a noi e che limitano le nostre possibilità di esprimerci. Quindi ragazze, non abbiate paura di essere acide, e quando vi si presenta il prossimo mansplainer ditegli che la sua spiegazione non è richiesta e che non ne avete bisogno. E pensate a noi che saremo dalla vostra parte. Siamo arrivate alla fine della puntata, purtroppo dobbiamo lasciarvi, ma torneremo lunedì prossimo sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko dalle 14.30 alle 15 di lunedì. Non vi anticipiamo il tema della prossima puntata. Ricordate che potete scriverci sulla nostra pagina Facebook Frequenze Sui Generis, oppure via mail all'indirizzo frequenzesuigeneris@gmail.com. E sempre sulla pagina Facebook potete ritrovare anche il podcast di questa puntata e delle puntate precedenti, e soprattutto seguiteci, la pagina Facebook è appunto Frequenze Sui Generis. Lanceremo anche i temi poi delle puntate a venire, in modo da raccogliere i vostri contributi, quindi seguite la pagina, scriveteci, partecipate e raccontateci anche un po' quello che succede nella vostra vita quotidiana, se pensate che abbia a che fare con l'argomento, se volete raccontarcelo anche che non abbia a che fare, insomma seguiteci. Ci salutiamo con Black Coffee di Peggy Lee. Black coffee, love's a hand-me-down broom, I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry. Now man is born to go loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around.